fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E per raccontarci abbiamo da dire una cosa. Intanto, cioè, scusate per la voce. Chi sei, Lucarelli? No, solitamente questa voce non ce l'ho sempre, però. Bimbo Marelli. Però ci sta, dai, questa sera è anche bello così. Allora, ci noi sta, vecchia. Stasera siamo la cupa degli Umpa Lumpa. Direttissimamente. Nella fattispecie c'è Tony. Simo. E poi abbiamo basta, anche Leo. Siamo solo in due stasera. Siamo anche noi. No, un attimo, non. Ferma, a noi piace scoprire le carte man mano, capito? Bravo, man mano. Bravo, allora, bravo. Sostanzialmente siamo qui perché? Voi vi state chiedendo perché? Pourquoi? Allora, intanto siamo in direttissima qui al convento. Sì. Ok? Io mi sono appena confessato. Esatto, anche io. E abbiamo l'obbligo morale, nonché fisico, di presentare tutte le persone che abbiamo qui dentro, in questa cabina che c'è. Sinceramente siamo un po' stretti, o no? Sì, siamo stretti, ma a noi poi piace così. Sì, ci poi piace stare vicini vicini. Ci piace. Allora, noi abbiamo... Manca un partiamo po' l'aria. Dalla destra. Partiamo dalla destra. Abbiamo... Sandrino, ciao ragazzi, ciao. Ciao Sandrino. Il mazzulatore per tutti. Sandrino, detto il mazzulatore. Alla super mia destra abbiamo Simo, che è il mio socio, cofondatore della Cumpa degli Umpa Lumpa. E poi abbiamo Tony, che è quello che ha la voce un po' così, ma non è sempre così. E se volete scoprire come è la mia voce, potete anche ascoltare la Cumpa degli Umpa Lumpa in direttissima da domani su Radio Posto Zero. Dalle 4 alle 5 e mezza. E sinceramente... E sinceramente, se ve lo perdete vi muore il gatto. Bravo, questo è ufficiale. Bravo. Ma non è della mia voce che vogliamo parlare questa sera, ma di una persona che abbiamo qui con noi questa sera. Sì. Allora, noi vi faremo sentire la sua voce e voi dovete indovinare chi è. Esatto. E cos'è? Esatto. Allora, intanto dovete indovinare il sesso di questa persona. Allora, cosa ci deve dire questa persona? Inventiamo una frase che lei ci deve dire. Lei dirà questa frase e le persone che ci stanno ascoltando diranno: questa persona è femmina oppure maschio. Okay. Allora, la frase in questione è: rosso di sera, bel tempo si spera. O li vuoi quei kiwi? Rosso di sera, bel tempo si spera, li vuoi quei kiwi? Tutte e due. Dai. Io sinceramente mi sono già eccitato. A me questa R fa impazzire. Posso dire, secondo me è un maschio. Guarda che Sandro qua di fianco a me. Sono molto eccitato. Mi sta toccando, te lo dico. Questa cosa che in diretta siamo quattro uomini. Aspetta, scusa, 1, 2, 3, 4, 5 uomini. 5 uomini e una donna. È sì, veramente... però così l'hai detto, boss. E così l'ho bruciata. L'hai bruciata. Okay. Ma perché? Perché? Quindi perché? Mica detto bisogna la donna. Esatto, potevi tranquillamente essere tu la donna. Potevo essere anch'io. Quindi, in definitiva, esatto. Abbiamo l'ospite. Abbiamo l'ospite questa sera. Allora, è risaputo che è una donna, non è bello chiedere quanti anni hai. Quindi noi cosa facciamo? Chiediamo da quanto tempo vivi. Allora, ospite, da quanto tempo vivi? 27 anni. Mamma mia, così bene. 27 anni potete... Ma le prendiamo così MILF? A noi piace così. Allora noi ci piacciono le MILF. 27 anni. Ma io non sono mamma, non sono MILF. Beh, vabbè, ma sai che superati i 25 passa MILF. Ci sono tutti. Dai 30 MILF, in poi passa Cougar, Io mi dissocio. Cosa ti... Allora, lui è l'esperto, ma dopo ti contatteremo. Comunque è così, è la storia. Va allora, bene, comunque stavamo parlando di te. Parliamo seriamente. Allora, 25 anni o 27, che 27. Dir si vuole, scusa, sono 27. 27 no, anni. Mi hai detto che sotto i 25 non sono mille, fai 24. Quindi 24 anni potete immaginare super soda e io sto toccando in questo momento, vi posso la garantire schiena. Che è veramente la schiena soda. Sodissima. Veramente soda. Poi, scusate, quanti di voi hanno avuto un'erezione con questa R? Scusa, mi dici cortesemente Ramarosso. Ramarosso. Io personalmente sono barzottissimo. Prova con Ramarro marrone. Ramarro marrone. Ramarro marrone. Mamma. Ma cos'è che vinco alla fine? Io, allora, ascolta Nadia, io ti amo già e te lo dico subito. Lascia stare. Io prima di venire qua ero convintissimo di volermi sposare, ma dopo questa sera non ne sono poi più convinto. Allora, silenzio, convinto. Nadia, io ti devo fare una dichiarazione d'amore. Attenzione, sono pronta, attenzione. Sono pronta. Vita mia. Oh mamma, vado. E qua, grazie, un impegno, vi saluto, vi saluto. È stato un piacere, ma la vostra vita dovete averla voi, cazzo. Quando mi dico vita mia, Ma che poi alla fine cos'è che ci ha colpito di Nadia? Cos'è che ci ha colpito di Nadia? A me personalmente una frase. Il prosecco. No, fermo. Sono serio. A me ha colpito personalmente il fatto che Nadia si sia presentata così. Piacere, sono Nadia e non mi tiro mai indietro. A me sinceramente si è presentata con piacere, sono Nadia, vuoi il prosecco? Io la amo già da quando sento questa cosa, hai capito? E ma solo domanda, ti ho aperto il prosecco? Sì. Mi sono tirata indietro? No. Cioè, te una la sei donna tirata? Che è no. Coerente. Coerente con se stessa, a noi piacciono le donne coerenti, piace questa R qua, ragazzi, io non lo so, io sono innamorato di questa donna. Ci piace l'R in generale. R sta per radio. A me piacerebbe troppo che nel tuo nome ci fosse anche la R. Beh, vabbè. Nadiar. Esatto, Nadiar. Nadiar spacca. Allora, quindi Nadiar, tu sei fidanzata? Sì. Va bene, abbiamo finito l'ospite e non c'è più con noi. Allora, Nadia è fidanzata. Passiamo a Sandrino. Sandrino. Fa Sandrino, tu sei fidanzato? Sì, sono fidanzatissimo. Ah, la gente non puoi andare anche tu. Allora, aspetta, Sandrino, che non. Aspetta, ferma. E che in un angolo che non disturba nessuno. Ferma. Sandrino, sei fidanzato, lui come si chiama? No, basta. Cioè, tutta la dici tu. Comunque, qua li stanno perdendo tutti. Sandrino non ha la R moscia, quindi non ci interessa. Non è moscia, è la R. No, infatti, allora, non è moscia, la R. È ufficiale che Sandrino di moscio non ha niente. Ve lo possiamo garantire? Diciamolo. Io voglio spezzare una lancia a favore di Sandrino. E non solo la lancia. È il numero uno del mondo. Sono d'accordo, sono d'accordo. È il numero uno dei pannulloni. Scusa, sono d'accordo anch'io. Scusa, Nadia, tu, diciamolo francamente, fuori dalle righe, tu non hai mai pensato di dargli una botta a Sandrino? Ma perché pensare? Siamo passati alle azioni noi anni fa. Ho iniziato. No, ma perché mi neghi? Scusami. Allora, Sandrino, cos'è questa storia? Tutte le volte fa finta di niente. Basta, Sandrino, lo sanno tutti, ma che siamo fidanzati. Ma la vostra è un po' travagliata. So. Comunque, Nadia, mamma mia, chiedere, secondo te, guardando la pista qua, quella gente, chi è il più minchione che c'è qua? Secondo me non è fuori dalla pista, ma secondo me è qua dietro. Anzi, vedo un riflesso, ma siamo noi. Segna uno a caso, lui è il mio nostro amico. Strano. Lo salutiamo. Gennaro il meridionale. Detto il terrone. Esatto. Ragazzi. Anzi, detto il terrone con una R. Terrone. Come dice terone lei, vorrei essere meridionale anch'io. Comunque, ragazzi, scusate, ci informano dalla pista che c'è il nostro amico Zibo a ore 2 in azione. Seguiamolo in diretta. Vediamo. Fate capire una cosa, ma chi è quello dal vetro che sembra uno zombie che sta guardando con ma è sempre vostro. No, è un nostro amico questo. Secondo te è un nostro amico? Io non lo conosco. Comunque, si fa presto a trovare i nostri amici perché ci sono rimasti solo i nostri amici. Esatto. Esatto. Siete gli ultimi che mollano, giusto? Sì. Ma noi non molliamo mai. Perché se molli puzza. Bravo. Se molli puzza, questo bravo, è regolare. Bravo. Soprattutto qua dentro, cortesemente, se potete evitare di mollare, esatto, sarebbe una bella cosa. Comunque, parliamo del nostro amico Gennaro. Ciao Gennaro! Gennaro il terrone, grande Gennaro. Però Zibo. Ciao Gennaro! Ringraziamo Zibo che veramente non ci sta mollando un colpo. E se la porta a casa stasera, Zibo, per me hai vinto tutto. Bravo Zibo. Quindi, come eravamo rimasti qua? Alla fine come ce la giochiamo? Allora. Esatto. Noi questa sera siamo qua per fare una sorta di intrattenimento. Sì. Ok? Allora, intanto abbiamo effettivamente un pochino di handicap, sì, a parte quelli mentali, che quelli ce li tiriamo dietro. Vabbè, ma quelli è una cosa normale, perché, cioè, perché allora innanzitutto siamo venuti qua per festeggiare quello che è il mio addio al celibato. Cioè tu ti sposi? Esatto. Ma celibato? Ma sei pazzo? Non celibato. Quindi questa cosa qua io non l'ho mai capita, cioè perché si dice festeggiamo l'addio al celibato ma celibato non c'è mai. È già andato via. È brutta questa cosa. Ma qui. Tu, molto brutta. Tu Sandro, che sei lì in silenzio così, te lo vedi lui sposato? Assolutamente no, infatti. Ma infatti non non ci vedo neanche io, vi posso garantire. Ma, allora, tu devi capire che noi praticamente siamo una compagnia che ci troviamo una volta a settimana, festeggiamo l'addio al celibato così, fantomatico. E stasera ci tocca a me. Stasera toccava a Tony. E esatto. Quindi siamo. Mi piace questa cosa. Sabato prossimo il festeggiato è Zibo. No, Zibo, eccolo Zibo. Comunque, Zibo. Sta per entrare in radio, eh? Ah, si è sentito. Allora, se tu. Se non hai tassi vergogna, guardalo. Allora, domanda così a bruciapelo a Nadia. Se tu non fossi fidanzata con il cecoslovacco barra italiano. È un lupo cecoslovacco. Se tu dovessi fidanzarti con un reggiano, con chi ti fidanzeresti? Così, ma, proprio ma, a bruciapelo. Proprio così, con chi andresti? Ma, così, proprio no, sei una botte. Questa è una domanda che ci sta. Se mi dici Gennaro, ti buttiamo fuori subito, No, e ti faccio licenziare. Tra l'altro, abbiamo detto un reggiano. Quello abbronzato di prima, come si chiama? Zibo. Zibo. No, Zibo, no. No. Sandro, parla tu con la. Anche tipico, anche persino il nome, no? Ragazzi, Zibo. Leo abbandona la diretta. Ferma tutto. Allora, lei giustamente è portata a capire che if you want to try the black, you never come back. E in realtà è già tornata indietro. Cioè, sostanzialmente, per chi non capisce l'inglese, una volta che provi il nero non torni indietro. Ma non è vero. Però io ti posso garantire che con Zibo ci gioco a calcetto. E questo mito non è, poi tutto è giusto il momento, è giunto il momento di sfatarlo. Non è tutto sto granché. Sono molto allora, pilotato. Allora facciamo così, visto che giochi a calcetto con tutti questi, mi dai un consiglio tu. Cusiniamo. Giusto, questo è già un po' più probabile. Già buono. Ascolta, io non gioco a calcetto con te, però. Aspetta. Questa mi è anche facile. Un po'. Perché innanzitutto devo. Ma sospenti i microfoni, vero? No, sono accesissimi e devo innanzitutto tirare fuori i gay. Quindi di etero ci rimane solo quello lì. Mm. Quello che sembra Mr. Sheffield con il ciuffetto. È vero, bianco. Sheffield. Mr. Sheffield, okay. Uno. Leo, che è quello più bello di tutti, perché diciamocelo, quello che è giusto è giusto. E Leo è veramente bello. Dai, ascolta, allora, fagli una dichiarazione d'amore, Leo. Chi Tony? Allora, no, ascolta, tu l'hai bistraffato e non, cioè, non l'hai neanche cagato. Cosa mi no, ha cosa di, stai dicendo? Questa sera vi faccio il filo. Hai bistraffato? Pensato, allora, bistraffato. Hai pensato a Zibo, ma non hai pensato a lui che era qua di fianco. Quindi adesso lui in diretta ti farà una dichiarazione d'amore. Digli qualcosa. E io te l'ho già detto, Nadia. A me la tua R mi fa impazzire. Cavolo. Guarda, io ti giuro che se avessi l'R, se fossi una donna, te la darei, boss. Io se fossi una donna, te la darei questa dichiarazione. Fagli vedere il muscolo. No, non ce l'ho più. Dai, fammi vedere il muscolo, dai, ti prego. Non c'è più niente. È la Madonna, ma è. Mamma mia, mamma. Cosa ci può far vedere di non volgare così adesso? Io vorrei vedere. L'addome. Vai, l'addome. Dai. Faccelo suonare. Attenzione. Mi dispiace perché il fidanzato è cieco, ma non è sordo. Quindi questo. Vai con l'addome. Vai. La Madonna, stai già cominciando a cambiare un po' idea. Signori, non è tutto sto granché, diciamocelo. Alla diciamo. Fine, tu mi hai alla detto fine... che hai delle buone doti, sì. Meno nascoste. Sì, però non nell'addome. Io devo dirti la verità. Guarda, allora, io se fossi te cambierei, da Zibo a lui. Vedi tu, ma io cambierei. Comunque io trovo davvero affascinante questa cosa che siete così tolleranti anche per quanto riguarda le mie operazioni. Tolleranti. Ma guarda che noi ci teniamo a te, non è che siamo. No, siamo dico, cioè, proprio... che avete questa apertura mentale per cui non discriminate no, i transessuali. Sinceramente... No, niente. Noi proprio tutto. Non vogliamo che. Cioè, ci teniamo a te e non vogliamo che mandarti sulla cattiva strada. Ma poi perché? Perché dovremmo mandarti sulla cattiva strada? Non ha senso. Tra l'altro, scusa. Noi siamo come i tuoi papà. Scusami, ma tu ti troviamo in moroso. Scusami Simo, ma tu ti sei mai impegnata a dire qualcosa che non abbia l'R moscia? Sì. Tipo? Cazzo. Questo. Tipo cazzo. Cazzo non ce l'ha la R, scusa. Appunto. Dai, prova a dire il ramarro senza l'R moscia. Vai, prova, impegnati. Non si può. Provaci. Ramarro? No, impegnati. Riprova. No ragazzi, non si può, cioè l'R moscia ce l'hai o non ce l'hai? Ma non è vero, dai. Guarda che l'R moscia è sexy, Sì, infatti. Cioè, se ce l'ha un uomo è gay, Se ce l'hanno donne sexy, com'è questa cosa? Infatti. Perché è questa cosa? Infatti, non è giusto. Noi siamo per la parità dei sessi. Di conseguenza, tu puoi continuare ad avere l'R moscia, perché tanto secondo me noi siamo tutti presi da questa cosa dell'R moscia. Nel frattempo c'è Zibo qui che Nadia sta guardando ininterrottamente. Dov'è? Zibo, abbiamo sfatato il mito che tu sia... È vero? No, no, no, dice che ha un cuore grande. Però tu mi insegni, Nadia cara, che col cuore ci fai poco. Con il? Aspetta, poco. Cosa ci fai con il? Con il cuore. Il? Ho capito, però se, Zibo, scusami, se avevi una mezza possibilità con Nadia, così te la sei bruciata. Ma oddio, in effetti però... Comunque io ho pensato di cambiare amici, ve lo posso dire, da stasera io vorrei cambiare amici. Io vorrei un amico... Come Zibo. Con la camicia bianca. Un amico giù. No, quello è un... Quello un terone, quello un terone, niente. E quindi niente, alla fine... Noi volevamo trovare a casare... Volevamo trombare noi. La nostra amica Nadia, capito. Ma non ce l'abbiamo fatta. Beh, ascolta, non ci avete fatto in diretta, ma adesso spegniamo tutto. Esatto, cioè, spegniamo qualcosa. Perché dovevo fare tutto in diretta, no? Non è che noi volevamo accasare la nostra amica Nadia, noi volevamo accasarci con la nostra amica Nadia, che è diversa. E invece... Che è quello che deve accasarsi con invece sua moglie, giusto? Esatto. Che... Quindi tolto me, voi ci siete. Cioè, noi ci siamo. Elvira, pronto? Tolto. Cazzo, tolto. Ormai lo sanno tutti, come si chiama tua moglie? Si sposa il 25 aprile comunque. Tolto Sandrino, che invece mi sembra che abbia già dato. Alla fine rimanete voi. Cosa ha già dato Sandrino? Si è già sposato. Sandrino, a parte tutto, no, lui ci ha dato qualcosa. Sandrino c'ha l'occhio malupino. Sandrino, lei si può dare di più? Ma Sandrino, ma tu Sandrino quanti anni hai? Io ne ho 41. Guarda che io ne ho quasi 39. Più o meno siamo quasi coetanei. Grandissimo. Sei sposato? Attualmente no. Bravo, neanche. È un bravo ragazzo. Ma Sandrino, allora, perché non dici la verità? Che ti tradisco con la mia fidanzata? Per esempio. Ma tu che hai la Nadia sotto gli occhi tutta sera? Cioè, tutte le sere, non è che ti voglia di... Io non ce la farei mai alla Io sinceramente, giuro, o avrei un sacco di occhiaie, o avrei un sacco di calli sulle mani. Vedi Nadia, io se fossi un muratore ti costruirei la casa. Se fossi un navigatore ti porterei a navigare. Però purtroppo faccio solo il trombettista, quindi... Se fossi un falegname, e quindi, scusa? E invece se fossi un falegname? Se fossi un falegname, però io sono un trombettista, quindi tocca che ti trombo. E quindi mi dedichi una canzone? Esatto. Allora, che canzone gli dedichiamo? Allora, una canzone per Nadia, vediamo. Non ce n'è, sono tu. Allora, sei la più bella del mondo. Oh, no, mamma mia! No. Così mamma è troppo ruffianata, eh? Allora, aspetta. Ti raserei la aiuola. Ecco. Già no, fatto. Anche questa già, non già mi fatto, piace. Anche perché hai detto trombettista, non violinista. Ti raserei la aiuola, già fatto, non me la sento. Allora, Il triangolo. Beh, è molto attuale questo tema per me. Passiamo in 5, quindi scusa, è un quadrilatero, no, un poligono. Okay. Allora, visto che vuoi fare poi... la splendida, visto che vuoi fare la splendida, una domanda secca te la faccio. L'hai mai fatta in 3? Sì. Aspetta. Momento di silenzio, nessuno sa più cosa dire. No, anche io perché so sì, non dire. È la R. La mia domanda è, due donne e un uomo o due uomini e una donna? Beh, non si può rispondere proprio qua. Cazzo, però... Lo lasciamo all'immaginazione. Tre uomini e una gamba? io voglio Sandrino in diretta con noi. Tra l'altro, devi venire. No, Sandrino è solo nostro. Tra l'altro la gamba era di Sandrino, volevo dire questa cosa qui, perché tre uomini e una gamba, la gamba era di Sandrino. Ecco perché va zoppo, capo. Bravo Sandrino. Comunque veramente, cioè, io non lo so, io ho dei colleghi a lavoro, ma nessuno è figo, né come te Sandrino, né come la grandissima. Comunque, allora, io devo dire una cosa per chiudere qua la storia. Sì. Voi se siete i numeri uno del mondo. Noi ci siamo divertiti un sacco. Esatto. Nonostante tutto, siete veramente... Nonostante noi, Sandrino e io. Nonostante voi due, che alla fine, vabbè, del locale forse siete quelli che contate meno, però siete i numeri uno del mondo. Però per chiudere, noi vi amiamo. Per chiudere in grandissima la serata, facciamo una roba. Tu ti limoni Nadia, io mi limono Sandrino. Ok. Ci sta. Ci stiamo. Dai, però voglio vedere che la scena. Aspetta, no, io voglio vedere. Avere paura. No, adesso no, ti devi sposare, Tony. Guarda che c'è. Fantastico. E comunque ci siamo limonati veramente, ve lo dico. Ragazzi, ma abbiamo usato un sacco di lingua. C'ha la lingua carta vetrata questo. È bellissimo limonarsi Sandrino. Per chi non l'avesse mai provato, fatelo perché è veramente qualcosa di eccezionale. Venite, accorrete, solo per le prime 100 chiamate c'è un'offerta promozionale. Ecco la limonata con Sandrino spontanea. Ecco che Sandrino, attenzione ragazzi, Sandrino ha dato un'altra parola magica. Carta vetrata, Nadia, puoi ripetere? Carta vetrata. Carta vetrata. Vicino al microfono, carta grazie. Carta vetrata. Lì, guarda l'obiettivo. Vicino al microfono. Vabbè. Ma ragazzi, carta vetrata. Ok. Ma comunque ragazzi, grazie. Carta vetrata. Mamma mia. Ci salutiamo così, mi sono bagnato. Così. No. Ci salutiamo così senza. No, io allora, io prima di salutarvi però vorrei sentire un piccolo spezzettino piccolino dei vostri sketch che fate in radio. Okay, allora, una pillola, qualcosa. Dai, così ci rimane, dai. Allora, dai. Ognuno col proprio ruolo, dai. Attenzione che state sradicando. Faccio io. Allora, vai il microfono. Cari amici, noi siamo soliti dare informazione o disinformazione, che dir si voglia. Abbiamo un personalissimo metodo per poterlo fare. Qui alla Cumpa degli Umpa Lumpa abbiamo il nostro personalissimo metodo, che è generoso fricchione. Salve, bentrovati dal vostro caro inviato generoso fricchione. Ecco le principali notizie della giornata. No, dai, vai, ti ricordi quelle che abbiamo scritto l'ultima? Quella di Cannavacciuolo. Telefonia. Uscita una nuova app per i macellai. Si chiama TripAdvisor. Cannavacciuolo dichiara: uscire sempre con forghette e col cannavacciuolo. Ok. E cucina, Cannavacciuolo dichiara: uscivo sempre con con coltello e forchetta, ma poi le ho posate. E per questa settimana è tutto. Un caloroso saluto dal vostro amato generoso fricchione. Vabbè, oggi è andata così, cioè nel senso ma che comunque... Ma voi lo dovete ascoltare montato, ragazzi. Esatto, sì, esatto. Così a cappella. No, oggi è andata così. Montate generoso fricchione. Montiamo generoso fricchione. Un saluto al convento, siete i numeri uno del mondo, io vi amo dal profondo del cuore. Grazie. Ciao dalla Cumpa degli Umpa Lumpa. Sì. Dove sei Sandrino, non ti si vede? Sandrino. Sandrino.